Bloch si alzò per venire ad ammirare a sua volta i fiori dipinti da Madame de Villeparisis. «Non avete di che preoccuparvi, Marchesa», disse lo storico, riguadagnando la sua sedia. «Se anche dovesse tornare una di quelle rivoluzioni che hanno insanguinato così spesso la storia di Francia, mio Dio, con i tempi che corrono non si può mai sapere», aggiunse, lanciando intorno a sé uno sguardo circolare circospetto, «casomai ci fosse nel salotto, cosa di cui, peraltro, non aveva ragione di dubitare, qualche malpensante. Possedendo un simile talento e conoscendo cinque lingue, ve la cavereste bene comunque». Lo storico della fronda stava assaporando un po' di riposo perché si era dimenticato delle sue insonnie. Ma, di colpo, gli venne in mente che non dormiva da 6 giorni e una pesante stanchezza, nata dal cervello, si impadronì delle sue gambe, gli incurvò le spalle e il suo volto si fece desolato e cascante come quello di un vecchio. Bloch volle compiere un gesto capace di esprimere la sua ammirazione, ma con un colpo di gomito rovesciò il vaso che conteneva il ramo e l'acqua si sparse tutta sul tappeto. «Avete veramente un tocco fatato», disse alla marchesa lo storico, che dandomi in quel momento le spalle non si era accorto della mossa malaccorta di Bloch. Ma questi pensò che le parole dello storico si riferissero al suo gesto e, per nascondere l'imbarazzo sotto l'arroganza, «Sciocchezze!» replicò. «Non mi sono bagnato!» Madame de Villeparisis suonò il campanello e un cameriere venne ad asciugare il tappeto e a raccogliere i cocci del vaso. Poi la nobildonna invitò i due giovani aristocratici alla sua matinée e lo stesso fece con Madame de Guermantes, alla quale raccomandò: «Di tu a Giselle e a Berthe, le duchesse d'Aubergine e di Portofino, di farsi trovare qui un po' prima delle 2 per darmi una mano», col tono con cui avrebbe sollecitato del personale aggiunto a venire in anticipo per preparare le compostiere. Ai suoi parenti di rango principesco, così come al signor de Nurpois, la marchesa non prodigava mai le cortesie che osava allo storico, a Cottard, a Bloch, a me, e l'unico interesse che sembravano rivestire per lei era di potergli offrire in pasto alla nostra curiosità. In realtà, sapeva di non doversi preoccupare più di tanto di persone per le quali non era una donna più o meno brillante, ma la sorella suscettibile e da trattare con riguardo del padre o dello zio. Non le sarebbe servito a nulla sforzarsi di brillare ai loro occhi, poiché non poteva imbrogliarli sui punti di forza o di debolezza della sua posizione, e nessuno meglio di loro conosceva la sua storia e rispettava le sue origini illustri. Ma, più che altro, essi non erano più, per lei, che residui morti, incapaci di dare frutti. Non le avrebbero fatto conoscere i loro nuovi amici né condividere i loro piaceri. Al massimo poteva ottenere la loro presenza o la possibilità di parlare di loro, sia ai suoi ricevimenti delle 5, sia più tardi nelle sue memorie, di cui quei pomeriggi non erano che una sorta di prova, di prima lettura ad alta voce davanti a una piccola cerchia d'ascoltatori. Ed era lì, in quella compagnia che tutti i suoi nobili parenti concorrevano a interessare, sbalordire, soggiogare, la compagnia dei Cottard, dei Bloch, dei drammaturghi d'una qualche notorietà, dei vari storici della fronda, era lì che Madame de Villeparisis, in mancanza di quella parte di bel mondo che non frequentava casa sua, trovava movimento, novità, divertimenti, vita. Erano quelle le persone da cui ricavava certi vantaggi sociali, a fronte dei quali poteva ben metterle in condizione di incontrare qualche volta, senza che arrivassero mai, peraltro, a conoscerla, la duchessa di Guermantes. Dei pranzi con uomini notevoli, i cui lavori avevano destato il suo interesse, un'opera o una pantomima già allestite da rappresentare in casa sua, o un palco per uno spettacolo interessante. Bloch si alzò per accomiatarsi. Aveva detto ad alta voce che l'incidente del vaso rovesciato era cosa trascurabile, Ma ciò che diceva sottovoce suonava diverso, più diverso ancora ciò che pensava. Quando non si ha una servitù abbastanza efficiente da saper piazzare un vaso senza far correre agli ospiti il rischio di inzupparsi o magari di ferirsi, è meglio non sfoggiare certi lussi, borbottava come fra sé. Era uno di quegli individui suscettibili e nervosi che, non sopportando l'idea d'aver commesso una goffaggine, non se la confessano mai e sono capaci per questo di rovinarsi una giornata. Furibondo, in preda a pensieri funesti, meditava di non tornare mai più in società. Un po' di distrazione a quel punto era indispensabile. Per fortuna, di lì a pochi attimi, Madame de Villeparisis l'avrebbe trattenuto. Vuoi perché conosceva le opinioni dei suoi amici e la marea di antisemitismo che stava cominciando a montare, vuoi per semplice distrazione, non l'aveva ancora presentato a nessuno. Ma lui, che non aveva pratica di mondo, al momento d'andarsene credette di dover salutare tutti, per cortesia ma senza affabilità. Chinò parecchie volte la fronte, sprofondò nel colletto il mento barbuto, guardando ciascuno via via attraverso i suoi occhiali a stringinaso, con aria fredda e scontenta. Ma la marchesa lo fermò. Doveva ancora parlargli dello spettacolino che contava di fargli portare in casa sua. Né, d'altra parte, voleva lasciarlo andar via senza dargli la soddisfazione di conoscere il signor di Norpois, che si stupiva di non veder arrivare, benché la cosa risultasse superflua, essendo Bloch già ben deciso a fare in modo che i due artisti di cui le aveva parlato venissero a cantare gratis, nell'interesse della loro gloria, in casa della marchesa, a un ricevimento che avrebbe radunato la più eletta società d'Europa. Aveva addirittura proposto, in aggiunta, un'attrice tragica, dagli occhi glauchi, bella come era, che avrebbe recitato alcune prose liriche con adeguato senso della bellezza plastica. Ma, sentendone il nome, Madame de Villeparisis aveva rifiutato. Si trattava dell'amica di Saint-Lieu. «Oh, buone notizie!» mi disse all'orecchio la marchesa. «Credo che la faccenda sia agli sgoccioli. Vedrete, presto saranno separati. E questo», aggiunse, «a dispetto di un certo ufficiale che ha avuto nella storia una parte disgustosa». La famiglia di Robert, infatti, cominciava ad avercela a morte con il signor di Borodino, il quale, per intercessione del parrucchiere, aveva accordato a Robert il permesso per Bruges, e lo accusava di favorire una relazione infame. «È una persona poco per bene», mi confidò Madame de Villeparisis con l'accento virtuoso tipico dei Germans, compresi i più depravati. «Poco, pochissimo per bene», riprese raddoppiando le S di pochissimo. Era evidente che, secondo lei, il capitano partecipava personalmente alle loro orge. Ma poiché nella marchesa l'amabilità era l'abitudine dominante, l'espressione di severo cipiglio verso l'orribile capitano, di cui pronunciò il nome il principe di Borodino con enfasi ironica, da donna per la quale l'impero non esiste, fu temperata da un sorriso di tenerezza nei miei confronti, accompagnato meccanicamente da una strizzata d'occhio di vaga connivenza con me. «Volevo molto bene a de Saint-Lieu-Embré», disse Bloch, «per quanto sia un maledetto cane, perché è estremamente beneducato. Mi piacciono le persone beneducate, è una cosa così rara», continuò senza rendersi conto, lui che personalmente era tutt'altro che educato, dello spiacevole effetto prodotto dalle sue parole. «Vi citerò una prova, a mio avviso lampante, della sua perfetta educazione. L'ho incontrato una volta in compagnia di un giovanotto mentre stava per salire sul suo carro delle belle ruote, dopo aver passato egli stesso le splendide briglie a due corsieri nutriti d'orzo e d'avena, non bisognosi, certo, d'essere eccitati dalla sferza scintillante. Ci presentò, ma io non afferrai il nome del giovanotto, e quando mai si capisce il nome delle persone cui ci presentano?» aggiunse ridendo, perché era una facezia di suo padre. De Saint-Luembre fece come se nulla fosse. Non si scompose troppo per quel giovanotto, non mostrò il minimo imbarazzo. Ora, qualche giorno dopo, ho saputo per caso che il giovanotto era il figlio di Sir Rufus Israel. La conclusione del racconto risultò meno penosa del suo avvio, se non altro perché nessuno dei presenti ne capì il senso. In effetti, Sir Rufus Israel, che Bloch e suo padre consideravano come un personaggio di rango quasi regale al cui cospetto Saint-Lieu avrebbe dovuto tremare, era invece, per il giro Guermantes, un estraneo parvenu, appena tollerato in società, della cui amicizia nessuno si sarebbe sognato d'andar fiero, anzi. «L'ho saputo», riprese Bloch, «dal procuratore di Sir Rufus Israel, amico di mio padre, un uomo assolutamente eccezionale. Ah, un tipo davvero singolare!» aggiunse con quell'energia asservativa, quell'accento d'entusiasmo che imprimiamo esclusivamente alle convinzioni cui non siamo giunti in modo autonomo. «Ma dimmi», continuò per me solo e a bassa voce, «a quanto può ammontare il patrimonio di Saint-Lieu? Se te lo chiedo, puoi immaginarlo, non è perché la cosa mi importi, è solo tu mi capisci da un punto di vista balzacchiano. Non sai nemmeno in cosa sia investito, se abbia titoli francesi, titoli esteri o beni immobiliari?» Non potei fornirgli il minimo ragguaglio. Smettendo di bisbigliare e alzando al massimo il volume della voce, Bloch chiese il permesso di far entrare un po' d'aria e senza attendere la risposta si diresse verso le finestre. Madame de Villeparisis disse che aprirle era impossibile perché era raffreddata. «Ah, se proprio vi fa male», commentò Bloch deluso. «Ma non si può dire che non faccia caldo». E mettendosi a ridere, fece compiere al suo sguardo un giro completo degli astanti in cerca di solidarietà contro Madame de Villeparisis. Non ne trovò fra quelle persone ben educate. I suoi occhi accesi, che non erano riusciti a coinvolgere nessuno, ripresero con rassegnazione un'espressione seria. A mo' di scappatoia dichiarò: «Ci saranno almeno 22 gradi, 25? Non mi stupisce. Sono praticamente in un bagno. Ah, oh, e non ho nemmeno, come il saggio Antenore, figlio del fiume Alfeo, la facoltà di immergermi nell'onda paterna per arrestare il sudore, prima d'adagiarmi in una vasca ben levigata e cospargermi d'un unguento odoroso». E, obbedendo al bisogno che tutti proviamo di riscuotere il consenso altrui su teorie mediche la cui applicazione gioverebbe al nostro personale benessere, «se pensate che vi faccia bene, io sono convinto del contrario. È proprio così che si prende il raffreddore». Bloch s'era mostrato entusiasta di poter conoscere il signor di Nurpois. Gli sarebbe piaciuto, diceva, farlo parlare dell'affare Dreyfus. «C'è in proposito una mentalità che conosco pochissimo e sarebbe alquanto stuzzicante fare un'intervista a quell'esimio diplomatico», spiegò in tono sarcastico perché fosse ben chiaro che non si riteneva da meno dell'ambasciatore. Madame de Villeparisis si rammaricò che ne avesse parlato ad alta voce, ma non diede troppa importanza alla cosa, vedendo che l'archivista, le cui opinioni nazionalistiche la tenevano, per così dire, al guinzaglio, era troppo lontano per poter sentire. Si irritò piuttosto quando Bloch, trascinato dal demone della maleducazione che l'aveva ormai accecato, le chiese, ridendo della facezia paterna: «Non è suo, per caso, un dotto studio che ho letto da qualche parte in cui si dimostra per quali ragioni irrefutabili la guerra russo-giapponese non poteva non concludersi con la vittoria dei russi e la sconfitta dei giapponesi? E non è un po' rincitrullito il nostro ambasciatore? Mi sembra d'averlo visto mirare la poltrona prima di mettersi a sedere, scivolando come se camminasse su delle biglie». «Ma neanche per sogno, aspettate un momento», aggiunse la marchesa. «Non so cosa stia facendo». Suonò per il domestico e quando questi entrò, poiché la marchesa non dissimulava affatto, anzi teneva a far notare che il suo vecchio amico passava da lei la maggior parte del tempo? «Andate dal signor di Nurpois e pregatelo di raggiungersi. Sta riordinando delle carte nel mio studio. Ha detto che sarebbe venuto entro una ventina di minuti ed è già 1 ora e 3 quarti che lo aspetto. Vi parlerà dell'affare Dreyfus, di tutto quello che vorrete», disse a Blanc un po' stizzita. «So che non è troppo contento di quel che succede».